Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Si racconta che Zeus, più indignato che mai per l'affronto subito dai fratelli Epimeteo e Prometeo, decise di punire ferocemente il titano e tutti gli uomini che egli difendeva. Zeus così ordinò di far incatenare Prometeo, nudo, con lacci d'acciaio nella zona più alta e più esposta alle intemperie del Caucaso e di fargli conficcare una colonna nel corpo. Inviò poi un'aquila perché gli squarciasse il petto, gli dilaniasse il fegato, che gli ricresceva durante la notte, giurando di non staccare mai Prometeo dalla roccia. Buongiorno a voi da Nicoletta, ne parla addirittura un mito. C'è un organo nel nostro corpo che non solo non smette mai di lavorare, ma addirittura che non smette mai di rinascere. Sì, perché solo come a pochi altri organi del nostro organismo viene permesso, il nostro fegato è capace di ringiovanirsi e rinascere giorno dopo giorno. Insomma, cari amici, se vogliamo rimanere giovani e in salute, una delle migliori possibilità che il nostro organismo ci offre è proprio quella di mantenere giovani e in salute il nostro fegato. E allora cosa fate voi per il vostro fegato? Lo sapete che ogni giorno noi possiamo fare tante piccole scelte in grado di mantenere giovane il nostro fegato e allo stesso tempo perciò in grado di regalare a noi che le facciamo salute e benessere. 349-238-6666 se volete scriverci. Intanto io ho il piacere di avere qui in studio con me il professor Franco Filipponi. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, leggo tutto d'un fiato la sua qualifica, che è molto lunga: presidente della Società Italiana per la Sicurezza e la Qualità nei Trapianti, ordinario di chirurgia generale all'Università di Pisa e direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale e trapianto di fegato. Intanto grazie per essere qua con noi. Professore, noi potremmo parlare del fegato, direi, come di una vera e propria caldaia. Gianni, mi fa venire caldo con questo caldo pensarci, ma soprattutto mi riferisco alla caldaia in termini di produzione energetica. Allora, l'immagine della caldaia è tutti familiare, ma ci aiuti a capire perché calza pennello anche per descrivere il lavoro del nostro fegato. Ma sicuramente è una vera e propria caldaia laddove esistono tante e tutte le funzioni che il fegato ovviamente regola all'interno del nostro corpo. La prima funzione è quella di produrre e sintetizzare tutta una serie di fattori utili e necessari alla coagulazione, per esempio, necessari per stabilizzare o comunque monitorare la parte, diciamo, di colesterolo, di trigliceridi e di tutto quello che nei grassi possano essere metabolizzati. La bile è chiaramente un liquido ben preciso che è all'interno del fegato e solo del fegato, che permette di assorbire con la dovuta maniera ovviamente tutti quelli che sono i grassi che transitano attraverso il corpo. Quindi dà energia e nello stesso tempo depura. Depura. Infatti nella fase di depurazione, che è l'altra grande funzione, non solo depura dalle tossine, faccio un esempio, ci sono dei settori come l'ammoniaca che chiaramente possono danneggiare il cervello laddove si trova davanti una patologia di epatopatia cronica. Questo a causa di una mancanza di filtro che il fegato ha in sé. Nello stesso tempo i farmaci, l'alcol, tutto viene depurato e a sua volta smaltito dal fegato. La primavera esiste la mattina, dalla mia cucina vedo il mondo torna. C'è l'universo di prima mattina, sì, dal giorno prima, dal giorno prima. Non è buono, mi sapevo che fa schifo, io cosa è stato, quello che mi è avuto. Mi ha stato detto e penso, povero mio fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato, fegato. Ci aiuta anche Vasco. Allora, com'è il vostro fegato, in salute, vitale, oppure rischiate di avere un fegato come quello cantato da Vasco? Cosa fate per averne cura? Vi sembra che il vostro fegato vi invii qualche messaggio, qualche segnalino di cui non comprendete esattamente la natura? Vi viene il dubbio? Professor Filipponi, l'Associazione Italiana per lo Studio del Fegato, che riunisce i maggiori specialisti italiani di malattie epatiche, propone proprio in vista dell'estate e delle vacanze, un decalogo di prevenzione che è formato da alcune semplici regole da seguire per conservare in salute il nostro fegato. Ne ho selezionato, le ho un po' accorpato, lei ci faccia capire perché è importante seguirle, provi a convincerci. La cosa, capisco che non è facile, perché il nostro fegato è un grande lavoratore, non si lamenta mai se non proprio quando, come si dice, non ce la fa più. Le malattie epatiche, infatti, legate poi a stili di vita, comportamenti a rischio, sono in molti casi asintomatiche. Questo è il grande problema, per cui uno si accorge del danno quando la situazione è spesso compromessa. Detto questo, noi abbiamo tutti gli strumenti per evitare che il nostro fegato si ammali. Noi siamo qui per informare, ma soprattutto per dare delle soluzioni e dare dei consigli per prevenire la cosa. Quindi noi abbiamo voluto darvi l'opportunità oggi di ascoltare da questo decalogo alcuni consigli che io dedicherei ai fegati sani. Li sentiamo uno ad uno e lei ce li commenta. Andiamo. Mantieni delle corrette abitudini igieniche. Segui un'alimentazione varia ed equilibrata e ricordati di praticare regolarmente attività fisica. Specialmente in estate dobbiamo avere l'abitudine di un'assunzione costante di acqua, in primo luogo da 1,5 litri anche fino a 2,5 litri al giorno. Nello stesso tempo dobbiamo avere un consumo di frutta e di verdura abbondante, che chiaramente deve andare anche in questo caso dagli 700-800 grammi al giorno di frutta e di verdura. Nello stesso tempo dobbiamo anche praticare un'attività fisica che sia oramai ampiamente riconosciuta come quella dei 5.000 o 10.000 passi, cioè semplicemente non sforzi particolari, ma semplicemente camminare tutti i giorni in maniera costante. Andiamo al secondo. Consuma moderatamente vino e bevande alcoliche e non assumere droghe di alcun tipo. Moderatamente, il vostro moderatamente è molto, un consumo direi molto basso però. Sì, direi che in piena estate la cosa migliore è di non assumere alcolici. Sì, questo lei lo sa che non è possibile. Però, non è possibile, lei ma sicuramente dobbiamo ricordare ai giovani che questo può diventare un grave errore, perché nel tempo purtroppo il fegato a quel punto si rovina, si può danneggiare, tanto da essere irreversibile il danneggiamento, e questo ovviamente insieme alle droghe può divenire un vero problema non risolvibile. Per cui il messaggio è di poter bere piccolissime quantità, ovviamente sapendo che se assumiamo l'alcol insieme alle droghe, questo sì diventa un mix esplosivo. Stai attento ai farmaci che assumi. I farmaci ovviamente possono avere degli effetti collaterali. Ogni persona ha la sua tollerabilità ai vari farmaci, per cui dobbiamo sempre sapere che si assumono dei farmaci su consiglio medico e nello stesso tempo, ovviamente, con la valutazione attenta di eventuali effetti collaterali di questi farmaci. Evita rapporti sessuali a rischio non protetti. Sicuramente dobbiamo sempre ricordare che, forse un po' troppo dimenticato, esistono ancora delle infezioni estremamente importanti come l'epatite B e l'epatite C. Quindi, mentre l'epatite B è chiaramente un qualcosa che beneficia di un vaccino e quindi è indispensabile legare il vaccino dell'epatite B all'epatite A, che fra l'altro viene condotta con la stessa vaccinazione, dobbiamo anche sapere che ci può essere un virus epatite C che invece può danneggiare in maniera estremamente importante il fegato, per cui laddove c'è un rapporto a rischio bisogna che questo sia protetto. Vaccinati contro l'epatite B e contro l'epatite A. Mi scusi professore, quindi si possono vaccinare contro l'epatite B, per cui sono vaccinati i ragazzi, i bambini che sono dal 91, vero? Sì, no, dalla fine degli anni 80 c'è la vaccinazione obbligatoria, ma anche un adulto può vaccinarsi per l'epatite B e l'epatite A. E qui ecco c'è un piccolo punto, mentre i giovani dalla fine degli anni 80 vengono vaccinati, gli adulti non tutti sono vaccinati, perché tutti coloro che non rientravano di fatto oggi non sono vaccinati. Bene, questi, se specialmente hanno lavori o appunto contatti a rischio, devono fare anche ovviamente seguendo le regole del proprio medico curante, una vaccinazione del B insieme alla A. Esegui controlli periodici del tuo sangue. Importante ovviamente non dimenticare mai che almeno una volta l'anno, anche se non si hanno malattie, è indispensabile fare un check-up che permetta, anche semplicemente una valutazione degli esami del sangue, di avere un monitoraggio della propria situazione, specialmente per quelle che sono le malattie, diciamo, dismetaboliche, come l'eccesso di colesterolo, i trigliceridi, il diabete e tutto quello che chiaramente poi dà un importante rischio vitale all'organismo. Professore, mi scusi, mi fa capire esattamente quali sono i valori che mi possono far capire che il mio fegato, perché quando noi facciamo gli esami del sangue, lei sa che prima ancora di andare dal medico ce li leggiamo e ce li interpretiamo. Certo. Ecco, le prometto che non facciamo autodiagnosi, ma ci dica quali sono i valori che noi dobbiamo controllare per la salute del nostro fegato. E sì. Essenzialmente, per quanto riguarda il fegato, noi dobbiamo controllare attentamente le transaminasi, sì, le gamma GT, che sono molto simili alle transaminasi ma sono molto più precoci nel rilevare un eventuale danno. Dobbiamo monitorare strettamente i valori del colesterolo, i valori del trigliceridi e di fatto conseguentemente anche sapere che la glicemia, cioè lo zucchero che viene assunto dal sangue, è fondamentale da controllare, proprio perché il diabete poi ha in sé una serie di complicanze che nel tempo tendono purtroppo a minare l'organismo. Gian Pasquale ci chiama da Napoli. Grazie a voi per avermi dato lo spazio di cui sto per approfittare. Volevo chiedere al professore un consiglio a proposito dell'alimentazione da seguire in merito al mio problema. Io ho una steatosi epatica, probabilmente derivante da un'infezione per epatite B che ho contratto non so quando, perché non ho avuto nessun tipo di sintomo, nessun tipo di problema. L'ho scoperto soltanto per fare le analisi, il classico check-up annuale. Ho scoperto di avere le transaminasi schizzate in alto, ho fatto una serie di successivi approfondimenti e ho scoperto questa storia qui. Non faccio consumo di droghe, nemmeno leggere, non ho consumi di alcol, sono completamente astemio. Volevo capire dal punto di vista però dell'alimentazione, per tenere sotto controllo questa benedetta steatosi, che cosa devo fare. Gian Pasquale, bellissima domanda. Intanto chiediamo, perché Gian Pasquale lo sa che cos'è la steatosi epatica, ma noi, molti di noi non lo sanno, professor Filipponi, che cos'è? La steatosi epatica è chiaramente una malattia che di fatto che può diventare tale nel momento in cui si ha un eccesso ponderale o un diabete, e nello stesso tempo si possono avere delle malattie come appunto l'eccesso di colesterolo, che chiaramente condizionano all'interno del fegato e di tutte le sue cellule delle gocce di grasso. Possiamo chiamarlo fegato grasso? Fegato grasso, un fegato grasso che di fatto nel tempo diviene in primo luogo più debole davanti agli stimoli e agli insulti immunitari. Nello stesso tempo evidentemente si tratta di un qualcosa che può nel tempo dare dell'infiammazione a queste cellule con il grasso e esitare verso quella che si chiama steatoepatite, cioè una forma infiammatoria che può avere evoluzioni che deriva proprio dal fegato grasso. Che deriva proprio dal fegato grasso. Senta, ma che cosa deve mangiare? Come fa a tenerlo sotto controllo? Ma essenzialmente noi dobbiamo partire dal presupposto che dobbiamo, specialmente per chi è in eccesso ponderale con fegato grasso, evidentemente dimagrire e tornare a un peso forma, e quindi va misurato la circonferenza a livello dell'ombelico per sapere ovviamente se siamo nei range oppure no, un po' più sia morbidini per l'uomo che per la donna. Nello stesso tempo dobbiamo ovviamente abbandonare o comunque consumare con estrema parsimonia tutto ciò che contiene farina bianca, cioè pizza, pane e tutto quanto, ripeto, ha in sé della farina. Dobbiamo ridurre. Perché questo della farina, mi dice? Perché purtroppo laddove abbiamo farina bianca essenzialmente raffinata, tutto questo viene veicolato rapidamente in circolo e si ha una disregolazione del sistema, diciamo, diciamo, di controllo della glicemia. E se io prendo quella integrale? Se prendiamo quella integrale le cose vanno molto meglio, proprio perché in circolo la farina integrale ovviamente ci porta gradualmente ad entrare in circolo con questo cibo e conseguentemente avere una miglior regolazione di quello che è la glicemia, appunto. Giuseppina, buongiorno a lei da Monza. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo chiedere questo al professore. Premessa, ho 53 anni, sono in menopausa, sono un po' grassottella. Ho il colesterolo leggermente altino, non ho altri problemi né di transaminasi né di trigliceridi né di glicemia. Ogni tanto mi vengono degli attacchi di raptus di prurito. Che fastidio, Giuseppina. Alle gambe, e a parte il discorso pelle secca che ci può stare per il discorso di menopausa, però volevo sapere se era un problema collegabile, se è una cosa che va indagato ulteriormente. Se è collegabile al fegato, abbiamo detto che è asintomatico, giustamente Giuseppina dice magari il dolore al fegato non vuol dire nulla, tante volte ci preoccupa quello, ma questo prurito che ti dà un po' l'idea di qualcosa che fa male, no? Il fegato che non filtra bene, non lavora bene, ecco allora che noi ci grattiamo. Questo è un po' il percorso che facciamo noi. Sono infinite, però essenzialmente è anche vero che purtroppo ci possono essere delle situazioni a livello epatico che inducono il prurito, specialmente diciamo su alcune parti, cioè le palme della mano, le piante del piede, a livello del gomito, ma non sempre si può attribuire a questo, almeno per perché quanto ne ha posso già tante, comprendere. No? Colpe, certo, il fegato, se gli diamo anche il prurito, però ci sono delle forme autoimmunitarie che possono, specialmente in estate, indurre tutta una serie di affezioni, diciamo così, infiammatorie della cute, che chiaramente poi hanno anche come esito il prurito. Quindi per a cui, Giuseppina, lei cosa consiglierebbe? Ma io consiglierei, da un lato, intanto per cominciare, di cercare di rientrare nel peso dovuto, di valutare insieme a un ecografista e a un epatologo, ovviamente, se c'è una steatosi epatica, quel fegato grasso, il famoso fegato grasso del nostro amico di Napoli. Nello stesso tempo, evidentemente, di valutare insieme al suo epatologo, appunto, oltre alla steatosi, anche se ci sono o ci possono essere in alcuni momenti delle situazioni in cui questo fegato si trova in difficoltà. Faccio un esempio: calcolosi della colecisti, cioè dei calcoli che stanno in colecisti, possono indurre delle situazioni che, per una stasi temporanea, possono dare poi anche un prurito che deriva direttamente ovviamente dalla scarsa eliminazione di bile. Il fegato è il generale delle armate. Da lui dipende la disposizione degli eserciti nel corpo. Rappresenta la preveggenza, come un comandante dell'esercito deve pianificare, disporre le proprie armate. Deve essere coraggioso, ma non imprevidente. Deve avere una radice forte che gli permetta di giungere fino ai luoghi più lontani. Impetuoso, non deve divenire collerico. Da lui dipendono i sogni, la fantasia e la leggerezza della vita. Commento al capitolo 8 del Su Wen, 4 secolo a.C. E in linea con noi abbiamo il dottor Maurizio Corradin, medico, esperto di medicina tradizionale cinese e un nostro esperto del Daily Lab e direttore del comitato scientifico Le Fay Resort. Dottor Corradin, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti. Ma come mi piace questo fegato, come paragonato al generale delle armate. Questa è proprio la caratteristica che veniva data già nel 4 secolo a.C., è un modo per dire che il fegato, ovviamente della medicina cinese, che quindi non è il fegato occidentale, si sovrappongono solo in parte le due funzioni, il fegato della medicina cinese, dicevo, si occupa di tutto ciò che riguarda le difese dell'organismo, di tutto ciò che riguarda gli automatismi dell'organismo, di tutto ciò che riguarda, insomma, il sistema immunitario, le difese della medicina occidentale. Per la medicina cinese fanno parte del fegato, ma il fegato energetico e molte altre cose. E ogni organo della medicina cinese ha uno spiritello nell'interno, e quello del fegato, che si chiama Hun, dà la capacità intuitiva. In alcuni soggetti viene anche detto la preveggenza. In ogni caso è la nostra capacità di sognare sia ad occhi chiusi che ad occhi aperti, è la nostra capacità di intuire è la nostra capacità di vivere la vita non solo con il raziocinio, ma per la parte che riguarda il fegato, di vivere con la fantasia, con l'intuizione, con la capacità di percepire l'essenza delle cose ancora prima che la nostra mente cosciente o no, ancora prima che il nostro pensiero le abbia divise, giudicate in giusto e sbagliato. Quindi quando ci sentiamo psichicamente giù di tono, secondo la medicina cinese, dottor Corradini, il nostro fegato è il generale che è un po' abbattuto? Assolutamente sì, molto spesso nelle turbe, quando trattiamo in agopuntura o in fitoterapia energetica dei soggetti con stati d'ansia, ancora di più con forme di lieve depressione, utilizziamo punti del meridiano del fegato proprio perché ha questa capacità di dare leggerezza nella vita, questa capacità di sentirci leggeri nelle nostre cose, di guardare le cose un po' dall'alto, di guardarle e sentire la vita e vedere la vita, ed è per questo che si dice che il fegato si apre negli occhi, proprio per sottolineare la capacità del fegato di farci vedere le cose in un modo diverso. E sai quanto importante è? Dottor Corradini, lo dice a me. Lo so quanto è importante provare a vedere le cose con una certa leggerezza, ma anche consapevolezza. Dottor Corradini, mi dà un paio di consigli per lavorare sull'energia del fegato e per continuare a far sì che questo generale sia un generale capace di guidare le armate con preveggenza, ma a pianificare con equilibrio e con una radice forte. Guarda, due o tre cose si possono dire. Una è l'alimentazione. L'alimentazione in medicina energetica, già descritta nel IV secolo avanti Cristo, era particolarmente importante. Nel caso specifico del fegato si parla di alimentazione acida, di sapore acido. Stiamo parlando del sapore acido di certe verdure o degli spinaci o della spremuta di arancio, sottolineando in particolare, per quanto riguarda gli agrumi, visto che abbiamo accennato dell'argomento, che il viscere collegato al fegato, che è la vescica biliare, questo lo è anche in medicina occidentale, dicevo che il viscere collegato al fegato viene chiamato il viscere dell'alba. Quindi il sapore acido, quindi le spremute d'arancio, vanno particolarmente bene al mattino. Quindi, come dice infatti anche noi, la nostra tradizione, no? Sono... Come dice, ma guarda che poi alla fine le tradizioni sono molto simili. Certo. C'è un altro aspetto importante da sottolineare, che già nel IV secolo avanti Cristo si sottolineava che gli alimenti vanno presi con una quantità che è inversamente proporzionale all'intensità del loro sapore, e mi spiego. Si parla di alimenti leggeri, che sono quelli della frutta e della verdura, da utilizzare sempre. Sì. Di alimenti di sapore moderato, che sono quelli dei cereali integrali di cui accennava prima il professore, che quindi vanno presi con discreta frequenza. Di alimenti forti, che sono rappresentati dalle carni, che sono da utilizzare con relativa moderazione. E certo. Alimenti tossici, chiamati giù, che non sono tossici come li intendiamo, sì, che vuol dire che fanno male, ma che vanno utilizzati con estrema moderazione. E si fa l'esempio dello zucchero bianco, del concentrato di limone, dei caffè che ha un sapore amaro, oppure del sale che ha un sapore appunto salato. Sono questi sapori che vanno utilizzati, quelli molto forti, che vanno utilizzati con molta cautela. Professor Filipponi, le piace quei suggerimenti della medicina cinese? Sì, sicuramente. Ho sempre apprezzato anche la medicina cinese. Devo dire che chiaramente, appunto, come giustamente il dottor Corradini ci sta dicendo, ci sono molti punti di contatto e giustamente in tutti gli alimenti tossici possiamo inserire a ben vedere sia il sale sia lo zucchero, proprio perché si tratta di situazioni che possono indurre anche patologie nell'organismo. Essere e benessere. Bentornati, c'è sempre il fegato al centro del nostro microscopio. Dottor Corradin, abbiamo scelto che cosa mangiare. Ci lasciamo con una riflessione. C'è un altro punto fondamentale. Il fegato della medicina cinese è collegato con un meccanismo uno a uno, cioè in modo molto stretto, ai muscoli e ai tendini. Per noi che ci occupiamo di medicina classica cinese, il fegato e anche i muscoli. Quindi da questo punto di vista Anche qui però va utilizzata la moderazione. Pensa che bello, si diceva il fegato ha bisogno di movimento, il fegato è il viscere dell'alba, è l'organo della primavera, quando tutto si mette in movimento, ma c'era anche la proibizione. I soggetti legno, i soggetti fegato devono fare attività sportiva ma non devono muoversi troppo, cioè non devono fare le maratone, sì. La passeggiata, la corsa di 20 minuti, di mezz'ora, questo va benissimo, quindi è quasi obbligatorio per il fegato della medicina cinese, ma anche proprio per modulare lo psichismo che a volte può diventare francamente eccessivo. È particolarmente importante l'attività fisica, che però deve essere necessariamente per questi soggetti moderata, pena la presenza di tendiniti, come ho visto molto spesso, che poi noi trattiamo con punti appunto del certo. meridiano del fegato, pena tendiniti e alterazioni muscolari, come vedo molto spesso in molti atleti. Dottor Corradina, presto anche con il nostro Daily Lab e poi con una puntata tutta dedicata alla medicina cinese. Grazie dottor Corradin. Un abbraccio a tutti e saluto a tutti gli ascoltatori. E noi andiamo a sentire Rita che ci chiama da Bologna. Buongiorno Rita, benvenuta. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Come sta il Salve. Suo generale delle armate, il suo fegato? Mica tanto bene. Come mai? Allora, c'è stato un periodo che è andato benissimo, poi c'è stato un periodo che è andato bene e adesso si pagano un po' le conseguenze di una cura lunghissima che abbiamo sospeso, si vedrà tra un mese come andrà. Perché che cura sta facendo Rita? Per 15 anni un medico mi fece assumere, io a 32 anni già non avevo più il ciclo mestruale, sì. mi fece assumere degli antidepressivi e un famoso farmaco che si chiama SARS, per gli attacchi di panico, sì. e mi disse che assolutamente io avrei dovuto prendere tutta la vita, e invece poi io li ho sospesi e non mi è cambiato niente. Cioè, allora Rita, la sua domanda quindi mi sembra è quanto danno può fare l'antidepressivo al fegato. Non entriamo in merito alla scelta della cura, no. fatto che Rita l'abbia sospesa senza il parere del medico eccetera, questo affronteremo il tema in un'altra occasione, certo. Antidepressivi e fegato. Ma antidepressivi e fegato, possiamo subito dire tranquillamente che l'antidepressivo induce una steatosi. E questo è il primo problema che chiaramente dobbiamo conoscere, laddove sono stati assunti o si continuano ad assumere gli antidepressivi. Ma dopo quanto tempo fa venire il fegato grasso l'antidepressivo? Ma l'antidepressivo abbastanza rapidamente, dopo pochi mesi di terapia già si cominciano a vedere i primi segni di steatosi, e poi ovviamente laddove si tratta di terapie a lungo termine ovviamente la steatosi progredisce sempre più e rende, come abbiamo detto già prima, il fegato pur ben funzionante ma con alcune limitazioni o comunque appesantito. Alcuni ma se io smetto l'antidepressivo perché il medico me lo dice, perché ho finito la cura, il mio fegato torna magretto o rimane grasso? Purtroppo per un lungo periodo rimane grasso e può tornare in migliore condizione laddove ovviamente si comincia ad avere quello che abbiamo già detto prima, un consumo certo. essenzialmente soltanto di acqua, non di bevande ovviamente con zuccheri o altro, e nello stesso tempo ovviamente avere un peso forma e una dieta che sia orientata esclusivamente agli antiossidanti e quindi di fatto alla frutta, alla verdura, quindi al pesce. Quindi questa è l'unica raccomandazione che possiamo dare alle persone che prendono antidepressivi certo. e che quindi pagano il prezzo di avere un danneggiamento del fegato non possono fare altro che attenersi a queste regole di stile di vita sì. che sono in qualche modo protettive. E se l'antidepressivo è fondamentale, ovviamente ancor più le regole di vita e diventano di alimentazione diventano ferme. Fondamentali. Sì. Vincenzo, dalla provincia di Ancona, buongiorno. Buongiorno e innanzitutto complimenti a Essere Benessere. Grazie. Volevo chiedere al professore se devo dare la colpa al generale, al mio fegato, se dopo anche un breve pasto, diciamo sia pranzo che cena, cado in una specie di catalessi, stanchezza, sonnolenza, anche mi sto diciamo abituando a dover fare per forza la classica pennichella. Che bellezza, diciamo. Vincenzo, una bella pennichellina che poi fa benissimo. Ma non è sempre possibile, soprattutto quando si fanno 80.000 km l'anno. Certo, non si riescono a fare i classici 10.000 passi come vogliono i dottori, e che cerco di sopperire con magari diciamo con una buona diciamo idratazione durante la giornata, il classico litro e mezzo d'acqua, sì. riesco a farlo. Solamente però, che questo problema vediamo rimane, se cioè... allora cosa può fare Vincenzo, insomma gli va giù la palpebra, sì, quando la palpebra. Perché capita a molti, però Vincenzo lo avverte proprio come un problema pesante. Sì, ma la prima cosa da verificare è se è ancora presente o se è stata asportata la colecisti. Se la colecisti è ancora presente, bisogna verificare con un'ecografia se ci sono dei calcoli all'interno della colecisti. Perché chiaramente nel momento in cui ci dovesse essere questa situazione, ci troviamo davanti a un dato che evidentemente dà una disfunzione della motilità del sistema biliare e conseguentemente una delle ripercussioni può essere proprio la sonnolenza postprandiale. Se questo non è, dobbiamo cominciare anche a valutare se il peso è rimasto nei giusti limiti o se il peso è oramai andato perché oltre, perché il sovrappeso diventa aumenta un po' il rischio sonnolenza in maniera non indifferente. Non che i magretti siano sempre svegli, no, però laddove c'è la pancetta comincia a essere un po' più difficile riuscire a mantenere l'occhio sveglio, per cui questo penso possa essere uno dei primi aspetti da valutare. Voglio salutare e dare il benvenuto al nostro dottor Aquilar. Buongiorno dottore. Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Psicologo e psicoterapeuta cognitivo comportamentale, un nostro esperto del Daily Lab. Dottor Aquilar, l'abbiamo chiamato in tutti i modi. Siamo partiti dal mito, abbiamo detto che il fegato è una caldaia, è arrivata la medicina cinese, ci ha detto che invece è un generale che mette a posto le grandi armate, e però per molti di noi il fegato è il luogo dove l'organo della rabbia. Certo, e la rabbia in quanto tale è una delle emozioni che svolge una funzione indispensabile perché fa parte del nostro sistema di autodifesa fisica, personale e familiare. In qualche modo la rabbia serve al primo posto a difenderci da un potenziale aggressore e quindi a moltiplicare le nostre energie nel difenderci e a difendere le nostre persone care che possano essere eventualmente aggredite. In questo senso la rabbia è sana, è funzionale, è efficace ed è velocissima. Alcune persone, per esempio, prima agiscono e poi si accorgono di aver agito quando scatta all'interno di questo sistema. In altri sistemi, invece, nell'attaccamento, nell'accudimento, nella sessualità, può essere un po' disfunzionale e potremo vedercela nelle sue varie forme. Ma, dottor Aquilar, la rabbia, quella che ci fa male, quello che ci rode il fegato, così coinvolgiamo anche il professor Filipponi, non so se è d'accordo che insomma queste emozioni così forti in qualche modo. Sicuramente. Ecco, è quella, qual è quella che ci fa più male? Quella che noi cerchiamo di soffocare, quella che sonnecchia, o c'è un tipo di rabbia più pericoloso di un altro? Sì, ci sono delle rabbie sostanzialmente irrazionali che derivano da una nostra rimuginazione o da un'eccessiva rappresentazione grave di qualcosa che sta accadendo. E a quel punto, poiché la rimuginazione è una cosa che noi possiamo portare avanti per ore, per giorni, per notti, alla fine ci danneggia, mentre invece la rabbia dovrebbe essere un'emozione situazionale che scatta in quel momento per ottenere un obiettivo preciso di liberazione da un aggressore. Senta, dottor Aquilar, lei che è un esperto del nostro Daily Lab e quindi, come mi ha scritto un ascoltatore, siete esperti che aiutano a passare dalla teoria alla pratica. Ci aiuti con un consiglio? Al primo consiglio dobbiamo riconoscere quando siamo arrabbiati e dobbiamo sapere che non è nostra responsabilità se ci arrabbiamo, perché la rabbia è un'emozione che non dipende dal nostro desiderio. Poi dobbiamo decidere se vale la pena di esprimerla o di nasconderla, perché alcune volte può essere più utile nascondere la rabbia per ottenere un obiettivo. Infine, dobbiamo imparare, e sapere che è possibile farlo, a modularla. Non è vero che la rabbia è più forte di noi. La rabbia è più forte di noi solo se c'è una minaccia fisica grave a noi stessi o a una persona cara. Grazie ai miei ospiti, ma voi non andate via, tra poco gli aggiornamenti del traffico. Prima un consiglio per chi in queste vacanze ha deciso di spostarsi in aereo. Ne parliamo col professor Manfredini, direttore della clinica medica, azienda ospedaliera Università di Ferrara. In questi ultimi anni è diventata di moda la patologia definita malattia della classe economica, diciamo la malattia trombosa venosa degli arti inferiori. Intanto diciamo che il rischio di trombosi venosa degli arti inferiori è presente solamente per voli di lunga durata, quindi di almeno 6-8 ore, e comunque interessa una porzione molto limitata di persone. Comunque sia, esistono degli accorgimenti: muovere le gambe, fare un pochino di ginnastica attiva mentre si è seduti nel proprio seggiolino, ricordando di muovere prevalentemente i polpacci, mantenersi idratati, quindi bere molto, possibilmente succo di frutta e acqua, non tè o caffè perché tendono a disidratare. Se la persona sa di avere un fattore di rischio, per esempio l'obesità, oppure avere avuto già una volta la malattia varicosa venosa o un tromboembolismo, allora le calze elastiche, semplicemente indossate prima di partire. Se il soggetto, consultatosi col suo medico, è ad alto rischio, allora converrà fare una iniezione sottocutanea di eparina a basso peso molecolare, una tantum, prima di partire. Essere e benessere. Amaro, acido, dolce e salato. Oggi, cari amici, riscopriamo il senso del gusto e il piacere di gustare quello che di bello e di buono la vita sa offrirci. Ci accompagna in questo percorso la professoressa Alessandra Graziottin. Buongiorno a voi, grazie. Io ormai ho preso a presentarla come sensuologo ufficiale di Essere Benessere, devo comunque presentarle anche con la qualifica per con la quale tutti la conoscono: è ginecologa e direttore del Centro di Ginecologia e Sessuologia Medica del San Raffaele Resnati di Milano. Allora, professoressa, quali potenzialità sono iscritte nel nostro senso del gusto e come facciamo a deprogrammare le funzioni nel corso della nostra vita? Innanzitutto, il gusto è un senso chimico, come l'olfatto, come si diceva nelle puntate precedenti, e questo ha un significato molto importante. Significa che tutta la comunicazione con il mondo che avvenga attraverso il gusto passa attraverso sostanze chimiche. Qual è il punto? Che, come lei diceva bene, abbiamo una grandissima capacità discriminante, molto simile a quella dell'olfatto, che tuttavia oggi è letteralmente ottusa da un grande conformismo alimentare. Sempre più noi usiamo cibi pre-preparati, congelati, presi in gastronomia, questo per di nuovo grande necessità di tempo, ma questo porta a coartare enormemente, a ridurre la grandissima possibilità di gioia, di esperienza, di storia e di emozioni che ci viene dal gusto. Ecco che allora l'estate può essere per grandi e piccini il momento del trionfo del gusto, non nel senso assolutamente della buffata, anzi, quanto nel senso della qualità, del riscoprire quanto piacere ci possa dare questo senso straordinario. Per esempio, riscoprendo i sapori della famiglia, qui di nuovo c'è il senso delle generazioni che oggi viene smarrito, quindi alcuni piatti particolari che faceva la nonna, la bisnonna, la zia e che ci riportano al profumo d'infanzia e al gusto d'infanzia, bene, varrebbe la pena di riprovarli d'estate, per esempio mettersi in cucina di nuovo col marito, col fidanzato, con i figli e dire: oggi facciamo le ricette della nonna. Non importa se ci si impiega 3 ore, perché è un tempo di qualità, è un tempo in cui anche i bambini riscoprono il fare in cucina. Professoressa, professoressa, mi scusi se le interrompo, lei ha parlato di gusto e di profumo, di ritornare quindi attraverso proprio anche i piatti della nostra famiglia a riscoprire una parte della nostra casa, quindi ricordi, sapori. Ecco, il gusto è molto collegato a tutti gli altri sensi. Lei, pensiamo a quanto sia importante per gustare il cibo davvero poterlo osservare e odorare. Ecco, come funziona questo meccanismo di sinergia multisensoriale? Possiamo descriverlo così? Sicuramente, i due più forti, come anticipavo, sono l'olfatto e il gusto, che tendono a muoversi nella stessa direzione, tanto vero che per esempio una donna che sappia cucinare bene, o anche un uomo naturalmente, sanno aggiustare il sale solo dall'odore, cioè non hanno più bisogno di assaggiare e fanno tutto con l'olfatto. In altri termini, noi abbiamo una grande sinergia tra questi due sensi. Esiste poi una estetica del cibo, e nell'estetica del cibo naturalmente la vista la fa da padrone. Ecco, si mangia con gli occhi, infatti. Si mangia con gli occhi, bravissima. E si mangia con gli occhi perché noi anticipiamo con la vista e con l'olfatto il piacere che ci verrà poi nell'assaporare. E qui c'è un altro concetto importantissimo, che è quello del piacere anticipatorio. Il piacere anticipatorio è quello legato alla via del desiderio, che è un desiderio appetitivo, si chiama proprio in chiave neurobiologica, perché non è solo desiderio sensuale e sessuale, ma è innanzitutto desiderio di vita, perché la via appetitiva regola tutti i comportamenti della sopravvivenza, quindi la ricerca di cibo, la ricerca ricerca di acqua e la ricerca anche di riparo naturalmente, oltre che la ricerca sessuale. Ecco che quindi sono sinergici proprio perché predispongono l'organismo all'appagamento di un bisogno, in questo caso la fame o comunque il piacere del cibo, e ci danno piacere nel momento in cui assaporando, mangiando un cibo che ci piace, il nostro organismo, sia dal punto di vista emotivo, sempre in pole position l'emotività, sia dal punto di vista affettivo, soprattutto quando è un cibo che noi mangiamo insieme ad altri, in un contesto possibilmente piacevole, conversando tranquilli e non scapicollati nelle corse durante la settimana, sia per il valore nutritivo, porta l'organismo in uno stato di benessere, quindi si dice ripristina l'omeostasi. Ecco che allora il cibo che diventa alleato del benessere in maniera multisensoriale diventa un cibo amato. Ed ecco di nuovo quello che si diceva, che la memoria viene tanto più impressa attraverso un senso, poi giustamente le diceva in realtà c'è sempre una grande sinergia, tuttavia noi oggi dedichiamo un'attenzione diciamo elettiva al gusto, bene, questa memoria viene premiata se accompagnata da emozioni positive o negative, naturalmente essendo d'estate, essendo noi degli ottimisti, parliamo delle emozioni positive, quindi benissimo al cibo preparato insieme, benissimo al prepararlo con cura, benissimo al condividerne la preparazione, perché intanto si conversa, ci si rilassa, si fanno le due risate, si fa lo stuzzichino, si assaggia, in tutta questa liturgia, questa piccola liturgia quotidiana c'è di nuovo un altro grande testimone del cambiamento che l'estate ci regala, il tempo. Noi ci regaliamo un tempo per fare cose che non abbiamo più tempo di fare abitualmente, quindi per assecondare anche una lentezza nel preparare, una lentezza nell'assaporare, un piacere di condividere una preparazione che magari richiede 3 ore per portare quel piatto a compimento, ma che poi ci regala una tale felicità nell'assaporarlo e nel condividere la memoria, soprattutto se si cucina in famiglia o con amici che condividano le stesse radici, che ci dà un piacere straordinario. E su questo vorrei aggiungere un altro commento che mi sembra importante per quanto riguarda il gusto, che il gusto ci consente una grande identità e rinforza la appartenenza. Non a caso le cucine regionali stanno tornando in auge ed è bene ed è giusto che sia così, perché c'è un grande bisogno oggi di radici che sono anche proprio legate ai sensi più forti, ai sensi arcaici, ai sensi degli affetti. Condividere proprio il dare ai figli attraverso anche l'attesa, perché tornavi a casa e dicevi chissà se la mamma mi ha fatto la e stavolta e la mamma la faceva. Quindi, di nuovo il piacere anticipatorio e di nuovo anche per esempio quando uno dei due arriva a casa prima, questo vale anche per le coppie oggi, è importantissimo che il primo che arriva, uomo o donna, visto che lavoriamo tutti e due, metta su qualcosa che ha profumo di buono, però, perché poi adesso se no i nostri ascoltatori maschi in ascolto mettono sull'acqua per la pasta. Preparate qualcosa di buono, perché si conquista anche con il gusto. Professoressa, lei mi dà uno spunto. C'è una letteratura sempre più crescente che parla di alimenti e cibi amici dell'amore. Ci dica un po' tutta la verità. È una leggenda metropolitana o c'è qualcosa di vero in tutto ciò? Guardi, in parte è vero, nel senso che alcuni cibi contengono sostanze che migliorano per esempio il tono dell'umore. La cioccolata contiene per esempio sostanze che migliorano il tono dell'umore e alcune ricerche suggeriscono che le donne che mangiano più cioccolata siano anche per esempio sessualmente più vivaci, più festose. Probabilmente la donna che mangia cioccolata senza senso di colpa è anche una donna che ha un ottimo equilibrio energetico, che per esempio fa sport, che per esempio ama in maniera festosa e che si consente anche la piccola trasgressione golosa perché sa integrarla bene nella propria vita, quindi la cosa ha una sua plausibilità. Però la cioccolata è anche un alimento molto consolatorio, quando siamo tristi è un classico, è no? La cioccolata. Consolatorio per questa ragione, perché come dicevo contiene sostanze che migliorano, aumentano il contenuto di endorfine, che sono le nostre molecole della gioia, e quindi migliora il nostro tono dell'umore. Che poi il mangiare cioccolata possa avere due valenze: una riparativa, come lei diceva, compensatoria, cioè sono giù, sono triste, nessuno mi ama e mi mangio la cioccolata, allora meglio quella al 75%, 80% di cacao, che è amara ma è buonissima e ha meno zuccheri. Oppure mangio la cioccolata e la condivido, me la mangio anche da sola perché sono felice come un passerotto e mi regalo anche questo premio perché mi piace tanto la cioccolata, punto, non perché devo compensare nulla. Questo è un mangiare cioccolata espressivo ed è probabilmente questo tipo di persona che è poi quella anche che ha gli indicatori migliori dal punto di vista anche del comportamento sessuale. Tornando però alla sua domanda, Ci sono altri cibi che per esempio venivano indicati come molto afrodisiaci, per esempio il caviale. Il caviale ha delle proprietà perché è ricchissimo di sostanze nutritive. E sì, l'altro elemento è che è un cibo raro e costoso, per cui il caviale di qualità naturalmente. Allora, qual è il punto? Che si sommano nella liturgia del condividere un cibo particolare, l'aragosta oppure il caviale, oppure uno champagne di alto livello, alcuni elementi. La rarità, il fatto che sia un cibo che non mangi tutti i giorni e che abbia alcune peculiarità dal punto di vista proprio chimico. Però tutti sanno che se uno bevesse champagne tutti i giorni, alla fine è come acqua, anzi gli viene un tedio pazzesco. Caviale tutti i giorni non si può mangiare, tedio pazzesco, e soprattutto non corrisponde di nuovo alla nostra identità gustativa, alla nostra identità proprio di appartenenza come cibi. Per cui cosa succede? Che invece può essere afrodisiaco mangiarsi il pane e formaggio sulla baita e poi far l'amore al bosco. Perché? Perché quel sapore ci riporta alla felicità che avevamo a 18 anni quando si andava in montagna con gli amici. Quindi scoprite, vanno bene alcuni determinati cibi, ma ciascuna coppia deve scoprire il cibo che in qualche modo alimenta e accende la passione. Professoressa Graziottin, all'appello ci manca un senso, anzi due, dato che faremo scoprire un sesto senso ai nostri ascoltatori. Per questo le do appuntamento alla prossima settimana. Buona giornata, professoressa Graziottin. Grazie a voi, buona vacanza. E per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta.